vita, c'è un ponte sull'immensità. Cosa sono in fondo io? Sogno fragile di Dio, con un corpo fatto così. Grandi occhi, colore, vivendo si muore, elevati per l'eternità. Vola, vola, che la forza arriverà, sempre sola, verso un'altra libertà. La farfalla nuova lascia sempre giù la crisalide che eri tu, vuota senza me. Dalle nuvole si sa, poi la pioggia scenderà, d'improvviso succederà.